Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Naturalmente ci potete trovare anche sul web tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito della radio, appunto radiocittafujiko.it, e recentemente e prossimamente anche tramite web in diverse province emiliane e non solo. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che ogni mercoledì più o meno si preoccupa di farvi ascoltare musica registrata dal vivo di diverse epoche e di quasi tutti i generi. E come sempre anche oggi Città Fujiko Live Club vi omaggia, diciamo così, di una novità che ribadisco ancora una volta riguarda la mia trasmissione, ma siccome questo album è uscito ormai da diverso tempo, credo che l'abbiate già ascoltato, però per questa trasmissione è una novità e io ve la propongo come tale. Ho volutamente lasciato passare la buriana concerti dei Radiohead qui a Bologna per proporvi l'ultimo album dei Radiohead, che è appunto è un live, e si chiama Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009, e come dice il titolo è in pratica la riproposizione del loro sesto album che si chiama Hail to the Thief, che è stato pubblicato nel 2003 in versione live, però non durante lo stesso concerto come succede in quasi sempre, ma assemblato da diverse registrazioni effettuate a Londra, Amsterdam, Buenos Aires e Dublino fra il 2003 e il 2009. Come sicuramente tutti voi saprete, Radiohead sono inglesi, vengono dall'Oxfordshire, da una cittadina che si chiama Abington, e hanno un suono molto particolare, diciamo così, che li caratterizza ampiamente. Dico subito che personalmente non è che vada pazzo per il Radiohead, ma sicuramente hanno delle belle cose nel loro book, diciamo così. Hanno fatto un paio di album dal vivo, di cui uno, che si chiama Live the Tramps, si poteva scaricare gratuitamente dal loro sito qualche tempo fa, penso che si possa fare ancora, e hanno oltretutto un numero impressionante di singoli con brani dal vivo che li rendono molto come dire, molto adatti a questa trasmissione. Oggi ci concentriamo sul loro ultimo, appunto, Hail to the Thief Live Recordings all'italiana 2003-2009, che appunto comprende diverse registrazioni in diversi locali. In alcuni casi si può risalire, in altri no, ma questo per il momento non interessa. Interessa solamente che ci andiamo subito ad ascoltare il brano che ho scelto per iniziare questa trasmissione e per proporre appunto questo nuovo album di Radiohead. Il brano si chiama Sail to the Moon. Questi erano naturalmente Radiohead, ho detto prima hanno fatto due album live, naturalmente questo è il terzo che vi propongo quest'oggi come novità, e questo era Sail to the Moon, uno dei brani che originariamente facevano parte di Hail to the Thief, lo ripeto, sesto album della band del 2003, che è stato riproposto integralmente in questo nuovo album live, con registrazioni effettuate in diverse epoche e in diversi posti naturalmente. E ho scelto volutamente questa Sail to the Moon iniziale per avere la possibilità di farvi ascoltare qualche canzone, qualche brano che parla di Luna, appunto, questo astro che ha ispirato tantissimi musicisti, tantissimi poeti, tantissimi scrittori, tantissima gente, insomma. E quindi andiamo ad ascoltarci qualche brano che parla di Luna, ad iniziare da una cosa italiana. Ve l'ho già fatto ascoltare qualche settimana fa, un personaggio che credo sia abbastanza sconosciuto dalle nostre parti, ma è abbastanza più conosciuto che da noi, nel Texas. Infatti lui si chiama Fabrizio Poggi, con la sua band Chicken Mambo. Ha effettuato diversi tour nello stato, appunto, del Texas e per tutti gli Stati Uniti, ed è un personaggio che andrebbe conosciuto anche dalle nostre parti. È un armonicista e cantante, viene da Voghera ed è attivo dal 1980. Ha fatto questo album che si chiama Live in Texas, guarda caso, che è un combo, vale a dire un CD più DVD, che è stato registrato all'Uptown Theater di Marble Falls nel Texas l'11 settembre del 2010. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è, appunto, riguarda qualcosa sulla luna, ed è in particolare una luna messicana, Mexican Moon. Lui è Fabrizio Poggi e Chicken Mambo. My baby, we cross the borderline. Tomorrow I'm gonna marry the girl of my life. And I sure heard the yellow rose of Texas. And I take her on a Mexican moon, on a Mexican moon, on a Mexican moon, on a Mexican moon. The dark and a flower on a dress. Where have they gone tonight? Your sweet lullabies. Where have they gone tonight? Your sweet Spanish eyes. Maybe they've gone on a Mexican moon. Hey! On a Mexican moon. Thank you. please don't cry. This was the land of our dreams, and I saw a light in the dark. I saw a little house, so many children around us. So I take you there, baby, on a Mexican moon. On a Mexican moon. Moon. Moon. On a Mexican moon. Mexican. E dopo La luna messicana di Fabrizio Poggi siamo andati un po' più su, sempre in compagnia di grande musica, questo strumentale dedicato alla nazione Navajo. Se i miei ricordi di infanzia non mi tradiscono, dovrebbero essere situati appunto fra Texas, Utah e Arizona, sud degli Stati Uniti, al confine col Messico naturalmente. E questo, ribadisco, ottimo strumentale è ad opera di una ragazza, grandissima chitarrista, ottima cantante e, scusate il maschilismo, molto molto molto bella ragazza, che si chiama Anna Popovic. L'abbiamo vista tanti anni fa oramai al Castel San Pietro in Blues Festival, ed è un personaggio che da Belgrado, dove è nata in Serbia, ha girato un po' per tutta l'Europa, poi si è stabilita da qualche anno negli Stati Uniti, dove ha una discreta carriera come blues woman, perché lei è veramente molto molto brava. Ha fatto 3 album dal vivo, questo è il primo, si chiama Anna, ed è un combo, no scusate, ed è stato registrato al Melkweg di Amsterdam in Olanda il 30 gennaio del 2005. Navajo Moon, questo strumentale, come vi dicevo, che racchiude in sé tutto quello che è la musica di Anna Popovic, perché lei non è di quei chitarristi accentratori, non è di quei chitarristi o quelle chitarriste anche che vogliono far tutto loro, ma come avete sentito lascia spazio anche alla band con assoli di soprattutto di organo in tutti i sensi. Lo ribadisco, si chiama Anna Popovic, bellissimo questo album che si chiama semplicemente Live in Amsterdam e che ci ha fatto ascoltare Navajo Moon. Hey baby, are you having fun? If you believe, Here's a little ghost for the offering. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. So Andy, did you hear about this one? Per lungo tempo la canzone finale dei concerti di R.E.M., band che personalmente manca moltissimo. E loro sono sciolti nel 2011 e coerentemente, almeno fino ad ora, non si sono più riuniti, non si sono più riformati, a parte qualche concerto estemporaneo. Questo che ci siamo ascoltati si chiama Man on the Moon, naturalmente, è tratto dal loro primo album live, che si chiama semplicemente Live, che è un combo anche in questo caso, due CD più DVD, che è stato registrato al Point di Dublino in Irlanda il 26 e il 27 febbraio del 2005. Tengo a precisare, non l'ho detto in precedenza, ma lo dico ora, che chiaramente non è che si voglia disquisire sui testi delle canzoni, basta che parlino di luna in tutti i sensi, perché ci sono le lune buone, le lune cattive, ci sono le mezze lune, c'è la luna storta, ce ne sono veramente di tutti i generi, ci sono anche quelle che uccidono, questa Killing Moon, uno dei grandi classici di una band che viene da Liverpool e che si chiama Ico and the Bunnymen. Loro sono formati nel 1978, si sono sciolti nel 1993, poi si sono riuniti nel 1996 fino ad oggi come duo, nel senso che sono rimasti Ian McCulloch, il cantante e chitarrista, e Will Sergeant, il chitarrista della band originale, anche perché nel frattempo il bassista è morto in un incidente motociclistico. Hanno fatto parecchi album live, questo si chiama Live in Liverpool, è stato registrato appunto nella loro città natale all'Institute of Performing Arts il 17 e 18 agosto del 2001. Come avevo già detto, il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama The Killing Moon. Up in your arms, too late to beg you. Oh, can't slip, though I know it must be the killing time. Unwillingly mine. Fate up against you, we're here through the thick and thin. He will wait until yourself to heaven. In starlit nights I saw you, so cruelly you kissed me. Your lips and magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against you, we hear through the thick and thin. He will wait until yourself to take up against you. Altra grande band che proviene da Londra, si chiamano tuttora Waterboys, sono attivi dal 1983 con diverse interruzioni, quando Mike Scott, che è da sempre il leader della band, cercava di avere una propria carriera solista, che però non è mai decollata pienamente, per cui quando succede questo ritorna con la dicitura Waterboys. È sempre poi lui, ma non si sa bene come funzionano queste cose. Come Waterboys ha un grande successo, come Mike Scott molto meno, ma comunque andiamo avanti. Questo era un brano che è contenuto nel primo album live dei Waterboys, ne hanno fatti solamente due nel corso della loro oramai lunga carriera, sarebbe ora anche di un terzo. Si chiama The Live Adventures of the Waterboys, è stato registrato in diverse località e in diverse occasioni. Il brano che ci siamo ascoltati, The Hollow of the Moon, è stato registrato al Glastonbury Festival in Gran Bretagna naturalmente il 20 giugno del 1986, e Waterboys saranno in giro per l'Europa la prossima estate, speriamo che tornino anche in Italia, perché la scorsa estate sono stati per un solo concerto in Toscana, però la data era a cavallo delle due date di Bruce Springsteen a Milano, per cui non ci sono potuto andare, e spero in un loro ritorno al più presto. Sicuramente uno dei brani più famosi per quel che riguarda la luna. Se prima avevamo R.E.M. Con un uomo sulla luna, qui abbiamo uno che passeggia sulla luna, Walking on the Moon, il brano che ci andiamo ad ascoltare, sicuramente lo conoscerete meglio di me, è ad opera dei Police, un altro trio che dal 1977 è arrivato al 2008 con diverse interruzioni, anzi molte interruzioni, diciamo che le riunioni sono state abbastanza brevi, abbastanza sporadiche, ma sicuramente ce ne saranno delle altre, almeno così credo. L'album si chiama semplicemente Live con il punto esclamativo, ed è stato registrato in due diverse occasioni. Quella che interessa a noi è l'Orpheum Theater di Boston, Massachusetts naturalmente, il 27 novembre del 1979, tantissimi anni fa, e il brano l'ho già detto, ma ce lo presenta anche lo stesso Sting. This is from my new record, it's called Walking on the Moon. Feel like it. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte che come sempre è iniziata con la proposta odierna, nuovo album per Radiohead, nuovo album live naturalmente, anche se sono registrazioni effettuate dal 2003 al 2009 e rappresentano in toto il sesto album della band, quello che uscì nel 2003, che si chiama Hail to the Thief. Il brano che ci siamo ascoltati in particolare si chiama I Will ed è stato registrato qua e là per il mondo, non è dato sapere esattamente dove e nemmeno quando. E come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna nel trascorrere degli anni. E ancora una volta devo dire, a costo di essere tedioso, che ci sono tantissime cose registrate in questo 3 dicembre 2025. Siamo ormai verso la fine dell'anno, per cui cominciate a pensare ai regali natalizi, libri o CD, che fanno sempre bene. E quindi il criterio di scelta comunque è un brano per ogni decade. Andiamo subito a iniziare, visto che abbiamo tantissime cose, dal 1965, insieme a un grande jazzman, un grande personaggio che rispondeva al nome di Ornette Coleman. Insieme al suo trio ha fatto una serie di album molto interessanti. Ornette Coleman era un multistrumentista, suonava il sax, la tromba, il violino, ed è nato a Fort Worth in Texas. Il suo primo album è stato pubblicato nel 1958. Come vi dicevo, ha fatto un sacco di album dal vivo. Questo si chiama At the Golden Circle Stockholm ed è stato pubblicato in due volumi. Questo è il primo, registrato il 3 di dicembre del 1965. Il brano che ho scelto per voi si chiama European Echoes, appunto l'eco europeo, Ornette Coleman Trio dal 1965. Thank you. Questo che ci siamo ascoltati è un brano che si chiama European Echoes ed è stato tratto dalla ristampa in CD di un album che si chiama At the Golden Circle Stockholm Volume 1. Ci sono due bonus tracks, una è la versione di appunto European Echoes che è stata registrata la sera seguente, il 4 dicembre, dura praticamente il doppio di questa. Questa era il 3 dicembre 1965, Ornette Coleman Trio, European Echoes. E ancora una volta devo fare ammenda, nel senso che come molti mi muovono questa critica, quello di essere molto esterofilo, ed è assolutamente vero. Però ci sono alcuni musicisti, alcuni artisti italiani, alcune band italiane che mi piacciono tantissimo. Uno di questi è un personaggio che viene da Cucciono, in provincia di Milano, suona il violino e canta e risponde al nome di Angelo Branduardi, che poi si è trasferito a Genova. Lui è in giro dal 1974, ha avuto un grande successo, se ve lo ricordate, con un album che si chiamava La Fiera dell'Est. Su questo c'è anche con un brano che si chiama Cogli la prima mela. Un piccolo aneddoto personale: quando suonò a Bologna la sera del 3 dicembre del 1979, quindi è per questo che su Record Today, arrivai un po' in ritardo, contrariamente al mio solito, era tutto esaurito e mi misi di fianco a quello che era il parterre. A un certo punto Branduardi suonò Cogli la prima mela e figlia e mamma dopo questo pezzo se ne andarono, perché loro volevano ascoltare quello ed erano già contenti, così riuscii a sedermi. Ma questo è un aneddoto personale. Si chiama Concerto, è un triplo long play in un magnifico box che è stato registrato durante la carovana del Mediterraneo, che era un tour itinerante per tutta Europa con diversi musicisti italiani, e il 3 dicembre 1979, come vi dicevo, arrivò al Pala Zarita di Bologna. In questo triplo long play ci sono registrazioni effettuate qua e là, questa è quella appunto del 3 dicembre e il brano si chiama Ballo in Fa Diesis Minore, Angelo Branduardi. We'll be right back. io la morte e porto corona. Io sono di tutti voi, signora e padrona. E così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. E porto corona, io sono di tutti voi, signora e padrona. E la mia l'aria faccia il capo, tu potrai tirare, e nell'oscura porta il passo andare. Sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo. Posa la falce, danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora. L'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce, danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora. E porto corona, io sono di tutti voi, signora e padrona. Così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto corona, io sono di tutti voi, signora e padrona. E davanti alla mia palla il capo tutto hai chiaro, e nell'oscura porta il passo a andare. L'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce, danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora. Sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce, danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora. Bologna, Palazzo dello Sport di Piazza Zarita, detto anche Pala Zarita oppure Madison, a seconda dei casi. Mi sembrava che il pubblico fosse un tantinello enfatizzato, ma comunque il concerto fu veramente notevole. Angelo Branduardi, il 3 dicembre del 1979, era qui a Bologna e ha inserito questo brano che si chiama Ballo in Fa diesis minore nel suo cofanetto triplo long play. Non so se è stato ripubblicato in CD, ma questo triplo long play comprende registrazioni effettuate qua e là ed è veramente molto molto bello da parte di questo personaggio, oserei dire unico nel panorama musicale italiano, ma non solo italiano. There was once a mighty land. Ed era un tour europeo per cui cantava anche alcune canzoni in inglese. Comunque andiamo adesso con una registrazione del 1981 e cambiamo completamente approccio musicale da parte di un quartetto che arriva da Northampton in Gran Bretagna e che è attivo dal 1978 con diverse interruzioni. Si chiamano Bauhaus, grande band, e hanno fatto tantissimi album live che sono soprattutto molti sono instant record, quelli che vengono registrati e venduti subito dopo il concerto, ma poi rimangono, chiaramente vengono stampati in numero superiore a quello venduto e si possono trovare in vari siti. Questo album, che si chiama Press the Jack and Give Me the Tape, era in realtà un bonus disc che veniva accluso alle prime copie del terzo album di studio dei Bauhaus, che si chiama The Sky Is Gone Out. Poi fu pubblicato sia in vinile che in CD a parte, e questo è il CD in particolare, ma ho anche il vinile. Ed è stato registrato in diverse occasioni, ma quello che interessa a noi è la registrazione del 3 dicembre del 1981 in quel di Parigi, alle Rose Bonbon, si chiama il locale. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è il title track del primo album della band, si chiama In the Flat Field Bauhaus, era il 3 dicembre 1981. Thank you. guys. Hi, it's good to be back in Austin and not tripping. Yeah, does anyone know where to get some hallucinogenic drugs, by the way? Il 1992 fu un anno di grazia per i Lemonheads, una band di Boston che però si sarebbe sciolta dopo 3 anni, ma il leader Ivan Dando, cantante e chitarrista, avrebbe ripristinato questa sigla nel 2005 ed è tuttora in giro, anche se l'unico membro originale e costante di questi Lemonheads è appunto Ivan Dando. Grande successo, dicevo, nei primi anni 90, grazie soprattutto proprio a Ivan Dando, che era un ragazzo molto bello, molto molto interessante, per cui il pubblico onestamente era prettamente femminile. Ebbero un grande successo con una cover di Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel e con un album e il singolo occluso che si chiama tuttora It's a Shame About Rain, che è proprio il brano che ci siamo ascoltati, perché questo pezzo uscì come singolo in tantissime versioni. Questa è una versione che si chiama Live EP ed è un box set dove, oltre al CD single con 4 pezzi tutti live, ci sono anche delle cartoline, delle fotografie, sono una cosa molto molto strutturata, diciamo. Tutti questi pezzi, come dicevo, sono stati registrati dal vivo al Liberty Lunch di Austin, Texas, che è un locale che solitamente ospita artisti country. Non so bene perché i Lemonheads siano finiti lì, ma il tutto il 3 di dicembre del 1992. Il brano, l'ho già detto, si chiama It's a Shame About Ray, loro si chiamano Lemonheads. We'll be right back. Trasferiamoci nella vecchia Inghilterra insieme a una band che si chiama Shed Seven. Anche per loro due tronconi, diciamo così. Loro vengono da York in Gran Bretagna e sono stati attivi dal 1990 al 2003, poi si sono riformati nel 2007 fino ad oggi. Hanno avuto un grande successo nel 1996, un grande successo in Gran Bretagna intendo, con una serie di singoli, 5 per la precisione, che sono entrati tutti nella top 10. Hanno fatto 5 album dal vivo, naturalmente sto parlando. Questo è il terzo, si chiama Siusi at Barras. Barras è il nome, che è il nomignolo che viene dato a un locale di Glasgow famosissimo per i concerti, che si chiama Barrowland, e che il 3 dicembre del 2002 ha visto in scena appunto i Shed Seven, che ci andiamo ad ascoltare in un brano che si chiama Chasing Rainbows. Being called a nervous wreck and working up another sweat for you. There's nothing I can do, no, for counterparts and bleeding hearts and all the things that fall apart for you. I'm pur essendo di York, giocavano praticamente in casa questi Shed Seven in quel di Glasgow al Barrowlands il 3 dicembre del 2002, quando hanno registrato questo album che si chiama See Us at the Barras. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Chasing Rainbows. Andiamo a concludere il Record Today di oggi, ci rimane il tempo dopo anche per un brano di Radiohead, ma andiamo con calma, andiamo per ordine. Siamo sempre insieme a una band britannica, un quintetto che arriva da Bristol, ed è attivo dal 2009, stavolta integralmente dal 2009 a oggi. Ha fatto due album live, questo è il secondo, si chiama A Beautiful Thing, Idols Live at the Bataclan. La band naturalmente si chiama Idols e il locale è quello che è stato anche recentemente sulle cronache per l'anniversario di quel tragico fatto che uccise tantissime persone che erano semplicemente andate a un concerto. Tralascio ogni commento perché sarebbe molto scurrile, e andiamo quindi con questa registrazione effettuata il 3 di dicembre del 2018. Il brano in particolare si chiama Greet, loro sono Idols. Bataclan di Parigi, siamo al 3 dicembre 2018 a concludere questa Record Today di oggi, 3 dicembre appunto, arrivano gli Idols con questo Beautiful Thing, Idols Live di Bataclan, il brano che ci siamo ascoltati si chiama Greet. E a concludere Città Fujiko Live Club di oggi ci presenta la novità che vi ho proposto oramai al passato quest'oggi, nuovo album live dei Radiohead. Come ho detto in apertura di trasmissione, ho volutamente fatto passare la Burriana a quattro concerti bolognesi Radiohead per proporvi questo album che era uscito prima, con più calma, diciamo così. E però vi voglio ricordare che vi siete ascoltati un paio di ore di musica live dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Bologna della trasmissione che si chiama Radio Città Fujiko. Ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 con musica di tutti i generi, quasi, però di tutte le epoche. Andiamo a concludere quindi con questo pezzo dei Radiohead. L'album si chiama Hail to the Thief, live recordings 2003-2009, e sono registrazioni che ripropongono il loro album Hail to the Thief, appunto, in versione integrale, però registrato qua e là per il mondo, non si sa dove, non si sa quando. Il brano che ho scelto per terminare questa trasmissione è abbastanza emblematico, perché si chiama Where I End and You Begin, dove io finisco e voi cominciate. Ciao a tutti da Nevio.